Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Un pezzo di storia d'Africa, un big man, un dinosauro, un autocrate, un leader simile ad altri, ma anche molto diverso. 86 anni, presidente per ben 27 anni, dall'indipendenza al 1991, Kenneth Kaunda è uno dei grandi personaggi dell'indipendenza e della storia africane. Ha condotto la lotta per la liberazione della Rhodesia del Nord, diventata poi Zambia, ha guidato il paese in modo autoritario, ma mai sanguinario, ha applicato un misto di principi cristiani e marxisti, prima di aprire il paese alla democrazia e all'economia di mercato. Oggi è molto attivo nella lotta all'AIDS. Affabile, Kaunda ci riceve nella sua residenza per ex presidenti di Lusaka per quasi 2 ore. Nella mano sinistra, l'onnipresente fazzoletto bianco, il cui significato è fonte di tante discussioni e speculazioni in Africa. L'ultima volta che sono stato detenuto nella prigione coloniale, ho pensato che sarebbe stato importante avere con me un simbolo, qualcosa che avrei agitato per salutare la gente, tutti i figli di Dio, per mandare loro un messaggio di pace, per dir loro che Dio vi benedica e la pace sia con voi. Ho pensato che un fazzoletto bianco fosse adatto a questo scopo. Sono uscito di prigione nel gennaio 61. Nel 61, sì. Sono tornato a casa. Ero stato incarcerato nella prigione di Salisbury. Si chiamava così allora l'attuale Harare. Quando ho fatto rientro a casa, avevo il fazzoletto in mano. Da allora l'ho sempre avuto. Parliamo ora dell'indipendenza. 50 anni fa vi fu un'ondata di proclamazioni di indipendenza. Furono ben 17 gli stati africani in quell'anno ad affrancarsi dalla tutela coloniale. Lei ha conosciuto bene colui che è stato un eroe perché fu il primo a portare il suo paese fuori dall'orbita delle potenze europee, Kwame Nkrumah del Ghana. Come lo ricorda? Qual è stato il suo ruolo? Che tipo di persona era? Kwame Nkrumah was a great African leader. He commanded a lot of love and respect. Kwame Nkrumah era un grande leader africano. Ispirava molto amore e rispetto alla maggior parte di noi. Lo incontrai per la prima volta nel 1957, quando mi invitò alle celebrazioni per l'indipendenza del Ghana. Una delle cose che disse allora era che l'indipendenza del Ghana era priva di significato se il resto dell'Africa non avesse raggiunto l'indipendenza. Pensai che era una dichiarazione molto importante. Infatti, ha aiutato molti popoli in varie parti del continente africano a conquistare l'indipendenza. Era il 1957, 3 anni dopo, negli anni 60, molti paesi africani diventarono indipendenti. Lo Zambia dovette attendere il 1964. Quali erano allora i suoi sentimenti vedendo che molte nazioni potevano accedere all'indipendenza, affrancarsi dalla Francia o dalla Gran Bretagna e dalle altre potenze coloniali? Era uno sviluppo più che benvenuto. Pregavo affinché gli altri paesi potessero seguire e diventare indipendenti. Era un sentimento gioioso. Dopo la lotta, la prigione. Nel 64 poi lei fu eletto alla presidenza. Cosa ricorda di quel momento? Il giorno in cui la bandiera coloniale è stata ammainata e la bandiera zambiana è stata innalzata è stato un giorno magnifico. Magnifico. Grazie a Dio per questo e grazie agli uomini di Dio che hanno lottato duramente per raggiungere l'indipendenza. È stato un cammino molto lungo. Eravamo determinati a lottare per prima cosa contro la povertà e contro tutte le sue ramificazioni, la fame, l'ignoranza, le malattie, la criminalità, la corruzione e soprattutto lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Questa era la rotta che avevamo scelto. Una priorità era l'istruzione e subito dopo la sanità. Abbiamo dovuto aumentare la produzione agricola per produrre abbastanza cibo per tutti gli zambiani. Abbiamo dovuto lavorare molto per sviluppare le comunicazioni nel paese, costruire le strade per collegare i centri. In questo modo abbiamo avviato i meccanismi per lo sviluppo e abbiamo continuato a lavorare su queste basi. And the machinery for development was set and we began to work along these lines. Come altri leader africani, lei ha seguito le teorie marxiste, ad esempio nazionalizzando molte aziende e settori economici. I risultati anche in altri paesi non sono stati molto positivi. Ci hanno provato in tanti, da Nkrumah, Mengistu, ma i principi marxisti non sembrano aver dato buoni risultati in Africa. Cosa ne pensa lei? Colonialism meant your wealth was in the hands of other people. Nel colonialismo le ricchezze erano tra le mani di altre persone. Sotto il colonialismo erano pochi colonizzatori a appropriarsi di ogni ricchezza che apparteneva alla gente del paese. Quando lotti per l'indipendenza, lotti per liberarti dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Cosa ci insegnano le sacre scritture? Ci dicono questo: ama il tuo creatore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto il tuo spirito, con tutte le tue forze. Questo devi a Dio che ti ha creato a sua immagine e somiglianza. Come relazionarsi con colui che è stato anch'egli creato a immagine e somiglianza di Dio esattamente come te? I comandamenti dicono: ama il tuo prossimo come ami te stesso. Questo significa che ti devi comportare con gli altri come vorresti che gli altri si comportassero con te. Laddove questi comandamenti sono stati accettati, laddove ci si comporta di conseguenza, c'è pace, non c'è sfruttamento. Ma laddove questi comandamenti non sono stati rispettati, laddove c'è sfruttamento, ci sono problemi e conflitti. Non c'è pace. Quando la gente è capace di badare a se stessa nel modo giusto, di utilizzare le proprie risorse nel modo giusto, lì c'è pace e ordine. Speriamo che l'Africa possa fare altrettanto e emulare quello che altri paesi già da tempo fanno. We hope Africa can do the same thing and emulate what other countries have been doing all this time. Lei dice speriamo, ma a 50 anni dall'indipendenza non è forse un po' deludente dover parlare ancora di speranza? What is it that has been happening in most of these countries? Il fatto è che in molti di questi paesi non è stato posto fine allo sfruttamento. Lo sfruttamento c'è tuttora. Qui, in Zambia, la ricchezza è sottratta al paese per essere portata in altri paesi, per servire gli interessi di altre persone in altri paesi, mentre qui la gente è rimasta povera. Sì, ma perché? Why? Because wealth is not used for the good of the people. Perché la ricchezza non è usata per il bene del popolo. Ma di chi è la responsabilità? Dei paesi occidentali? Della comunità internazionale? Del Fondo Monetario Internazionale? Dei governi africani? Non succede solo in Zambia, ci sono altri paesi come la Repubblica Democratica del Congo, dove la ricchezza appartiene alle compagnie minerarie del Canada, della Svizzera o della Francia. Correct. That's what the problem is. Esatto. È lì la fonte del problema. La ricchezza non è prodotta per aiutare gli abitanti del paese. È portata via, verso altri paesi. Succede ancora oggi. Le grandi compagnie vengono, su nostro invito, si installano nel paese, cominciano a produrre ricchezza, ma questa ricchezza va altrove. Non resta nel paese dove viene prodotta. Not in the country, for the country where all this is produced. Sì, ma come mai? Exploitation continues. Exploitation was there in colonial days, is still there. So I see it. Lo sfruttamento continua. Lo sfruttamento, come il colonialismo, c'è ancora. Questa è la mia visione della situazione. Però ci si può chiedere perché i governi africani non fanno in modo che la ricchezza rimanga nel paese. Because you have the World Bank, perché c'è la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e altre organizzazioni simili che sono state create per rafforzare ulteriormente la posizione dei ricchi e indebolire quella dei poveri. Questo è il nostro mondo oggi, dove i ricchi si arricchiscono sempre di più, mentre i poveri diventano sempre più poveri. Lei stesso però ha fatto capo al Fondo Monetario Internazionale. Se non erro, ha rotto le relazioni con l'FMI nell'87 e poi ha siglato un accordo con loro 2 anni dopo. Che cosa l'ha indotta a cambiare parere? We were forced to change our minds because of the weakened position. Siamo stati costretti a cambiare politica per via della posizione di debolezza nella quale ci trovavamo. Abbiamo dovuto cedere, ben sapendo che la sofferenza della gente sarebbe continuata. La sofferenza dei poveri in Zambia. Gli altri paesi poveri vivono gli stessi problemi. Same thing, same problem.